Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Alessandro Benvenuti legge Metello di Vasco Pratolini. Lo scioperante è un lavoratore che ha preso coscienza della sua condizione di sfruttato e deliberatamente affronta la lotta e sacrifici sempre maggiori onde rivendicare i suoi diritti. Queste sono parole tutte vere nel momento dell'azione, combadolati davanti ai compagni a cui basta dar l'esempio perché gli facciano muro. Ma poi, quando uno sciopero si trascina, come crescono le difficoltà, crescono le tentazioni. Siamo, sì, a spasso, ma non come da disoccupati e col chiodo fisso di trovar lavoro. Durante uno sciopero si tratta di resistere, cioè di aspettare. Tempo per disperdersi e bestemmiare e lasciarsi pigliare dalle voglie ce n'è quanto se ne vuole. Le ore non passano mai. È un caldo, un'afa. Ci si domanda come riempie la giornata la gente che vive senza aver bisogno di lavorare. E ci si risponde che, al solito, è questione di denaro. Si potrebbe andare al gioco del pallone, alle diurne dei caffè Chantant, sotto la pergola dell'osteria di Porta Prato, ai bagni addirittura. Invece, per non scendere in piazza Santa Croce e sentirsi ripetere sempre le stesse domande oziose dal momento che la risposta è una «aspettiamo, questa volta son loro che debbono mollare», si preferisce mettersi in mutande e ciabatte dentro casa, con porte e finestre spalancate per creare del riscontro. La giornata dura un'eternità e la notte non si riesce a dormire. E siccome siamo giovani, si fa più spesa all'amore. Passata mezzanotte, si comincia a respirare. Sull'alba, all'ora che di solito ci s'alza, bisogna accostare le persiane. Fa quasi freddo col solo lenzuolo. Ersilia dice, finisce che questo sciopero ce lo ricorderemo. Ma non si rifiuta. Anche lei è giovane, le piace. Malgrado le preoccupazioni, ella sa che i negozianti continueranno a segnare. Farà più treccia questa settimana, rinnoverà il debito con la strozzina. Intanto anche per lei è come una vacanza, un momento di gioia che non ci si aspettava e che, giovani come siamo, non si può negarsi e a maggior ragione non si può negare all'uomo che si ama. Ora lei esce a far la spesa, armata di sfacciataggine e sorrisi, col bambino in collo. Lui arriva fino alla camera del lavoro, torna e il desinare è rimediato. Lo aspetta un altro pomeriggio, fino alla sera che c'è la riunione con Del Buono. Alla sezione del partito ha preso in prestito l'ultimo numero di critica sociale. Si sforza di leggere, c'è un'afa. Malgrado tutto sia spalancato, non spira un filo d'aria. L'istinto lo porta ad avanzare. Son giorni e giorni che ronzano attorno alla finestra i suoi pensieri. Si librano di pochi metri e vanno a posarsi sul davanzale sovrastante, dove sta affacciata, ora che il sole batte di rimpetto, la bella Idina. Avrò bevuto mezzo litro d'aranciata. E ci crede, signor Metello? Ho più sete di prima. La sete la leva soltanto il vino. C'ho anche quello. Tengo sempre un fiasco avvolto in un panno bagnato come m'ha insegnato lei. Ne vuole? È proprio una tentazione. Aspetti, porto un po' d'aranciata anche per Libero. Ma forse ne gradisce anche Ersilia, glielo chieda. Sono solo. Ersilia è andata da sua madre in San Frediano col bambino. Oh, allora... Posso venire su io? No, non è per questo, è che anch'io sono sola. L'uscio non me lo può aprire? Certo, se lo dice lei. Così era incominciato. Una ventina di giorni prima, Ida compiva gli anni. Diventava maggiorenne l'esosa. Al mattino Ersilia le aveva fatto gli auguri e donato un mazzo di garofani, veri, questi, e freschi, da un centesimo l'uno. Ida aveva trascorso la giornata a casa dei genitori e la sera aveva invitato Metelle ed Ersilia a prendere il caffè, ma se volevano anche la cioccolata. Sposa da 2 anni, ella entrava adesso nei 21 di età. «Una gran data, si invecchia!» ripeteva squittendo, e a Metello prodevano le mani. Comunque, la visita non era stata tanto lunga da farlo spazientire. Il bambino si era appena addormentato e, per quanto lontana da lui una rampa di scale, Ersilia era preoccupata di saperlo solo. Si stavano accomiatando, allorché Cesare disse, ma senza malizia, come per congedarsi appunto con un motto di spirito, «Scioperante è parente di scioperato! Stia attenta, signora Ersilia!» Ersilia sorrise, lei per educazione, e Metello guardò il mosaicista alzando le sopracciglia e scuotendo la testa in un modo che poteva interpretarsi come di assenso, ma anche come di commiserazione. E una volta entrati nella propria casa, mentre Ersilia si abbatteva sul suo petto dando sfogo alle risa, non la battuta di Cesare, ma l'espressione con cui Metello l'aveva accolta la divertiva, Metello commentò: «Io non ho ancora capito se lui è più imbecille o lei è più esosa». E ancora, qualche ora dopo, con Ersilia addormentata al suo fianco e più in là il bambino, egli non riusciva a prendere sonno. Tuttavia, non era allo sciopero che pensava, né ai suoi compagni, né a Badolati o Maddii, ma a quei due del piano di sopra, come se non li conoscesse da 2 anni ormai, e non avesse formulato da tempo su entrambi un giudizio che gli sembrava indiscutibile e definitivo. Ora, più che pensare, farneticava. Cesare era un bravo artigiano, ma un uomo di spirito non davvero. Non c'era una cosa che lui e Cesare avessero in comune. A Cesare piaceva Wagner più di Verdi e trovava soltanto becera la prosa di Augusto Novelli, di Novellino, il tono delle sue polemiche come le sue commedie. Non aveva mai messo piede al gioco del pallone, mai fatto un bagno in Arno, mai bevuto fuori dei pasti. C'era da meravigliarsi non fosse un bacchettone. Comunque i preti, anche se non andavi in chiesa, li rispettava. «Fanno il loro mestiere», diceva. Secondo Cesare tutti facevano il loro mestiere, come non esistessero mestieri sporchi e mestieri puliti. Non bisogna vedere tutto nero. C'è più onestà di quanto non si creda e dove meno ci si aspetterebbe. Parlava come un terziario. Era un uomo d'ordine. Affermava di rispettare tutte le idee, forse perché in proprio non poteva dire di averne. Se una ne aveva era questa, che coteste idee, o rosse, o bianche, o nere, non portassero della confusione. Del bubù, diceva. A suo parere, confusione l'avevano portata tanto Crispi con la guerra d'Africa, quanto Bresci col suo regicidio. Come coloro che erano scesi in piazza nel 98 e i generali che gli avevano sparato addosso, pari e pari. Non si era mai arrischiata a dirlo, ma era una considerazione che gli si poteva attribuire. Quando comincia il bubù, non si sa mai dove si va a finire, diceva. E perché avesse a noia quella che lui chiamava confusione era facile da capire. Se c'è del bubù, gli stranieri non vengono, e quelli che ci sono scappano. E la sua clientela era formata soprattutto di stranieri. L'Italia intera viveva sui forestieri. Oltre a non pensare, Cesare vegetava invece di vivere. Sempre nel laboratorio che aveva ereditato dal padre, e il resto della giornata perso dietro ai capricci della moglie, la domenica al Pagliano e qualche doposcena nella sala interna del caffè delle Colonnine. Dovevano essere degli anni che non usciva d'intorno piazza Santa Croce. Non aveva nemmeno fatto il militare. A furia di star curvo sul telaio fin da ragazzo, gli si era deformata la cassa del torace. Forse, in tutta la sua vita, non era mai andato al di là dell'Ungarno e di sotto i portici. Bisognava quasi persuaderlo che dalle parti delle cure e del Romito erano sorti e si ingrandivano dei nuovi quartieri, nuove fabbriche, nuova vita. «Sì, sì», diceva, «non ne dubito, un giorno ci dobbiamo andare». Si rivolgeva alla moglie e, cercando di passare inosservato, le sfiorava la mano. Lei rispondeva, «No, no e no, non ci verrò mai, se prima non mi porti al mare. Non mi interessa che questi siano mesi buoni per il passaggio dei forestieri. Se non mi ci porti, ci vado da sola». Lui diceva, «Va bene, d'accordo, ma non t'arrabbiare, se no poi ti fa male lo stomaco tutta la notte. Ci andiamo al mare, quest'estate ci andiamo». C'era da alzarsi e da chiedere, «Permette, signor Cesare, che gliela dia io, a nome suo, a sua moglie, una labbrata?» Ma lo sguardo di Ersilia, furbo, ridente, che non di meno implorava, lo tratteneva. Se Metelli interveniva, interveniva per dire, «Di qui a quest'estate, signora Ida, più panico e meno uccelli». L'estate era venuta, e i Lombardi avevano affittato una camera in pensione e una cabina da pancaldi. Lei, essendoci stata da bambina, aveva preso gli accordi per corrispondenza, dal 30 al 30 di giugno e luglio. Cesare si era persuaso a lasciare il laboratorio nelle mani del suo primo lavorante. Ne aveva 3 di lavoranti, era un datore. «Se anche ci rubano, qualcosa di guadagno ce lo dovranno pur far trovare», aveva detto Ida codesta sera del compleanno. La bella Idina, tutta fronzoli e gestri e risatine, ma proprio per questo Cesare se ne doveva essere innamorato. Il vuoto sotto la fronte gli aveva fatti combaciare. Ella, si diceva Metello, era quanto di più antipatico, di esoso ci sia al mondo e porti la sottana. E definirla esosa, antipatica, ora gli sembrava quasi un complimento. Nell'amore sui tetti, che avevano vista all'Alfieri, in platea loro 4, un matinè domenicale, il fidanzato diceva alla sua dama, «Vien via, esosa, dammi un bacio!» L'alba, e ci pensava ancora. Si misero a strillare le rondini, si annunciò di lontano il venditore di pane fresco, e lui era più sveglio di 6 ore prima. Di lì a poco sentì pesticciare al piano di sopra un passo leggero. Ecco, l'esosa si era alzata, mezza nuda, di certo. Aveva dei seni da star dentro la mano, lo si immaginava anche di sopra il vestito, e le cosce lunghe, poiché aveva alto il sedere, era una ragazza, e con quel marito. Metello scoperse di non avere mai avuto a che fare con una ragazza ancora minorenne e di aver perduto in quei 2 anni una grande occasione. D'improvviso si sentì pieno di vergogna. Ersilia si era voltata dalla sua parte, aveva aperto gli occhi e subito li aveva richiusi, si era tirati il lenzuolo sotto la gola e rannicchiata. Metello trattenne il respiro. Al piano di sopra i passi fecero l'inverso cammino. Ersilia sussurrò, «Sei sveglio?» «È l'abitudine», disse lui. «Tra poco mi sarei dovuta alzare». «Ma se non è ancora passato il lattaio?» «Quanti anni sono, Ersilia, che ci siamo sposati?» «Lasciami dormire finché passi il lattaio e si svegli il bambino.» 2 anni e mezzo nemmeno. 2 anni e 4 mesi. Te ne avevi appena 20 e io 27 compiuti.» «Bravo», lei disse. «Gioca all'otto.» Si voltò a guardare se il bambino era coperto e tornò a rannicchiarsi vicino al marito. Egli era turbato, scontento di sé, dei suoi recenti pensieri, e di secondo in secondo sempre più animoso. Confusamente capiva che ora, possedere la moglie, era come sporcarsi e sporcarla anche moralmente, ma anche significava allontanare da sé con energia, con furore, codesti pensieri e testimoniare ad Ersilia, in un modo per lei insospettato ma comunque gioioso, la sua fedeltà e il suo affetto, che non erano mutati. La carezzò sulle cosce, le scoperse il ventre. Lei ancora tra il sonno si sentiva fresca, malgrado il sudore sotto la gola, non avrebbe voluto e non di meno era già vinta, desiderosa soltanto che egli l'accarezzasse ancora e che nell'amplesso che si attendeva fosse dolce, leggero, che la prendesse senza scomporla. Egli si era girato sul fianco e la costringeva supina, la baciò sulla bocca. «Non hai ancora aperto gli occhi e fai la spiritosa?» Ella aveva abbassato le palpebre e sorrideva. «Gioca all'otto», ripeté. Egli si sollevò sui ginocchi e nello stesso istante il bambino si destò. Chiamò la mamma, che gli fu subito vicina e lo cullava, e non poteva trattenersi dal ridere. Era il terzo sabato dello sciopero. C'era Olindo che aveva dormito in casa loro su una branda in cucina, lo si sentiva tossicchiare. Arrivò il lattaio ed Ersilia gli calò il paniere. Quindi Metello si doveva alzare e, pur risentendo a momenti durante la giornata la stanchezza per la notte trascorsa in bianco, fu ugualmente attento e padrone dei propri nervi fino alla sera, quando si ebbe lo scontro con Badolati. Dopo cena, in pari con la propria coscienza, il sonno lo colse di sorpresa, come il suo bambino. Si addormentò al tavolo, la testa sul braccio, mentre Ersilia rigovernava e Olindo l'aiutava ad asciugare le posate. Idina gli era uscita di mente, ma per poco. L'indomani, domenica, al Pagliano davano la Traviata con la Bellincioni, che in questa occasione aveva il Bonci come Alfredo. «Wagner è Wagner», gli disse Cesare chiamandolo dalla finestra, «ma con una violetta simile anche Verdi ci deve fare la sua figura. Mi permette di invitare lei e la signora?» Quando si è in colpa, ci par d'essere sempre pedinati. Così, se un pensiero si conficca in testa, anche il volar di una mosca sembra prestabilito. Ora tutto contribuiva ad avvicinarla a Idina e a farli invaghire di lei. Ella venne col vestito rinnovato il giorno prima, quello della maggiore età, come non trascurò di ripetere. Aveva metà braccia nude e un vezzo azzurro a due giri che le ricadeva sul seno. Metello scoperse che le sue pupille erano davvero tutte nere e le orecchie piccole piccole, con le buccole anche azzurre, ma della stessa foggia di quelle di Ersilia. «Guarda i miei orecchini?» gli chiese. «Li ho comprati sul Ponte Vecchio, ho voluto copiare Ersilia!» Lui disse, «Peccato confessato!» E fu un modo di non venir meno al suo atteggiamento e insieme, egli solo lo sapeva, di indulgere a un complimento. Non di meno gli sembrò che lo sguardo di Idina brillasse, come se ella avesse penetrato codesta sua intenzione. Il Pagliano era uno splendore d'ori, di luci e di velluti rossi, ma se si voleva trovare posto in loggione bisognava, dopo aver acquistati i biglietti, mettersi in coda 2 ore prima che facessero la porta. E non appena quelle maschere davano la via alle belve, occorreva lanciarsi di corsa, lavorando di gomiti, aiutandosi con le grida su per le scale. Uno scalino guadagnato erano tanti posti strappati al centro della piccionaia, di dove si vedeva e sentiva come dal palco reale 4 ordini sopra. Cotesta domenica, nel sali sali, Ida inciampò su uno scalino. La turba che veniva dietro stava per calpestarla, e non Cesare, ma Metello fu lesta a sorreggerla, prendendola sotto le ascelle e facendole fare di volo gli ultimi gradini. Ella era leggera, una piuma, e tutto un sorriso. Poi, nella corsa finale per la conquista della panca, una volta seduti si erano venuti a trovarsi, sì come sempre le due donne in mezzo, ma, contrariamente al solito, Idina stava accanto a Metello. La sua sottana gli batteva sui calzoni, e per un istante nell'assestarsi egli posò una mano sulla sua coscia dove erano le giarrettiere, ma subito, sorridendo alla preoccupazione che andava dipingendosi sul volto di Cesare, Ersilia si era alzata. «Venga, Ida, suo marito, se non ha lei accanto, dà in smanie!» «Questo no!» protestò Cesare. «D'altra parte non vedo perché ci dovrebbero cambiare le abitudini!» «A volte cambiare bene!» disse Ida. «Io non mi muovo!» «Oh, Ida, che vuole farci andare di traverso la Traviata?» replicò Ersilia. «Senza contare», Metello disse, sostenendo il tono d'allegria e dentro di sé se ne vergognava, «che geloso potrei essere proprio io!» «In questo caso», Ersilia disse, «anch'io resto dove mi trovo». Era per tutte e quattro, così sembrava, un modo di stare allo scherzo, di fingersi spiritosi. Ora la platea lentamente si riempiva. E i loro discorsi, di loro donne in specie, inseguivano gli abiti e i cappelli estivi delle mezze calzette che in quella rappresentazione pomeridiana, l'ultima della stagione, prendevano possesso dei palchi e delle poltrone, finché si spensero le luci. Si accese la ribalta e cominciò l'animazione sulla scena, il coro e la voce folleggiante della Bellincioni che la sovrastava. «Libiam lieti calici!» Metello stava coi gomiti sulla balaustra, le mani nel vuoto, intrecciate, e tutto il suo sforzo consisteva nel cercare di immedesimarsi nella musica, nell'azione che si svolgeva sul palcoscenico. Sfortunatamente, egli conosceva troppo bene le amorose schermaglie di Alfredo e di Violetta per potersi disfare di una considerazione che, dopo averla formulata, di minuto in minuto sempre più lo ossessionava. «Non ho mai avuto a che fare con una donna che portasse le giarrettiere. Ersilia, lei, sempre con quegli elastici che a volte le rimaneva il segno fino al mattino, e fosse il caldo, fosse una sua impressione, Pian piano il fianco di Idina aderiva al suo. I due ginocchi si toccavano, erano una fiamma in mezzo al gran calore. Giravano inutilmente a pochi metri dalle loro teste al centro del soffitto le lunghe pale dei moderni ventilatori. Dopo il primo atto, con uno di quei suoi trapassi d'umore e con la saggia condiscendenza che ella amava esternare, sempre un po' infantile e civetta nei confronti del marito, Ida si alzò e disse: «Mi dia il suo posto, Ersilia, non facciamoli più soffrire questi mariti!» Malgrado l'estasi in cui li aveva beneficiati l'ugola della Bellincioni, grondavano sudore. Passò il ragazzo del caffettiere e bevvero una gazzosa. Metello, ormai persuaso della sua commedia, gridò: «Le scelgo io!» Ne offerse a Cesare una al limone e per sé, per Idina e per Ersilia, le prese rosse, che almeno al colore potevano sembrar vino. Tornati a spegnersi le luci, ora sedendogli accanto, Ersilia gli sussurrò: «Non ti sembra, Metello, di esagerare?» Quella sera Ersilia gli ripeté: «Non so che gusto tu ci provi a mancargli di rispetto. Te ne approfitti perché è una persona educata, è un imbecille, un borghese. E con questo, forse per non essere borghesi bisogna essere maleducati?» Egli tacque ed improvviso si sentì carico di malumore. Stavano finendo di cenare, in cucina, con Olindo, che durante quel pomeriggio era rimasta a far da baglia al Liberino e che ora crede di intervenire. «Borghese o no, ha saputo farsi una posizione. A quanto sento può anche permettersi di andare al mare. E se pensa a come mi trovo io, domani arriverò a Rincine con 2 o 3 lire sì e no, e dopo più di 15 giorni che non mi sono fatto vivo. Ma saranno almeno 3 lire, eh? Che ne dici?» «Forse, chissà», gli rispose Metello duramente. «Avrai quanto avranno gli altri». E portato dalle sue stesse parole, come riversando sulla testa di Olindo il veleno che era venuto a depositarsi sulla sua propria coscienza: «Tu e qualche altro cercate di mettere zizzania. Vi sto studiando da un pezzo, non fate che lamentarvi. Anche il tedesco, dopo i buoni propositi del primo giorno, sta battendo in ritirata. Siete diventati amici, a quanto pare. Siete tutti d'accordo. Come se fosse noi, io, Giannotto, del buono, a costringervi a scioperare. Come se non c'entrassero l'impresario e lo sciopero non fosse stato deciso all'unanimità!» Olindo teneva gli occhi bassi e ammucchiava le poche molliche sulla tovaglia. Ersilia disse: «Metello, non alzare la voce, sveglierai il bambino!» «Non ho ragione? Mi sbaglio, forse?» Olindo scosse la testa. «Questo è un altro discorso», disse piano. «No, è un discorso giusto. Nessuno nega il tuo bisogno. Ma come hai bisogno te, più o meno tutti hanno bisogno. E se proprio volevi portare a casa qualcosa, potevi tornare a Rincine in questo frattempo e occuparti nella mietitura, come hanno fatto tanti. Con la salute che ho, il forcone non è più pesante dei cofani. Sì che è più pesante. Tu hai 15 anni che non lo prendi in mano, te ne sei scordato. E d'altronde allora si era ragazzi. La fatica, anche se ci ammazzava, si rivoltava tutta in crescenza. E poi avrei dovuto umiliarmi allo zio fattore più di quanto non ho fatto finora? È questo il tuo errore. Non lo senti la bestemmia che dici? Chiedere lavoro ti sembra un'umiliazione!» Ersilia intervenne ancora e Metello si alzò. «Io ho finito!» disse. Diede la buonanotte e raggiunse la sua casa. Metello avrebbe fatto a meno di accendere la candela per non dare fastidio al bambino. E poi le finestre erano spalancate, sarebbero entrate le zanzare, e c'era abbastanza luna. Ma se le finestre di rimpetto erano buie, la strada era piena di vita. Si udivano i richiami e le voci della gente seduta sulle soglie, sulle seggiole nane, e un certo traffico di carrozze davanti alla rimessa. Dall'angolo di via Michelangelo, dove era la fiaschetteria, veniva la musica di un paio di mandolini. Come poté egli sentire che Ida era affacciata al davanzale sovrastante? Dunque ci pensava. Si portò alla finestra, guardò in su, e non gli venne fatto né di salutarla né di darle la buonanotte. Lei era in sottoveste, aveva le spalle nude, e anch'essa, senza dire una parola, ma come se lo stesse aspettando, gli sorrise, a lungo, muovendo leggermente la testa, come alludendo a un affettuoso diniego, e finché egli rimase a guardarla e a ricambiare il suo sorriso. Quindi egli si ritirò, si stese sul letto. Lei cantava a bassa voce, e malgrado i mandolini e l'animazione della strada, arrivava fino a lui la sua voce. «Parigi, oh caro, noi lasceremo, la vita uniti trascorreremo». Era un idiota, era una provocatrice, e il letto gli sembrava più infuocato di sempre, l'afa più soffocante che mai. Il bambino dormiva su un fianco, con due dita in bocca e il culetto nudo. Sentì Cesare che la chiamava, e lei rispondergli, «Fammi respirare altri 5 minuti. Non mi vede nessuno, no? E purtroppo non tiro un refolo di vento, ho il petto tutto un sudore». Metello si alzò, si infilò di nuovo i pantaloni e tornò in cucina. Ersilia stava rifacendo la branda per Olindo, che era ancora seduta al tavolo, con la testa tra le mani. Metello gli disse, «Diamo, vai, pensatore! Ho un ventino di più, c'entrano 2 mezze mescite e una boccata d'aria. Qui si respira». Ersilia, dalle spalle di Olindo, gli sorrise e fu per Metello un colpo dentro il cuore. Tuttavia, uscito in strada, mentre Olindo gli diceva, «Tu non devi credere», lui, invece di ascoltarlo, si voltò a guardare in alto, alla finestra di Ida, la quale un attimo si spenzolò e subito si ritrasse. Alessandro Benvenuti ha letto Metello, di Vasco Pratolini. Regia di Francesca Zammarelli. A cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini. Ad alta voce @rai.it